Buongiorno, benvenuti alla lezione di Gemara. Oggi ci troviamo sulla pagina 15A, Tet Vav, scusate, ancora 14B un po', Yudale da Mudbet, il punto in cui bisogna tornare un po' indietro su quella vecchia. Amar Ula, vabbè, sono due righe, ve lo leggo. Abbiamo parlato prima dei tefilin, del momento in cui è giusto mettere i tefilin, e la conclusione era che bisogna dire lo Shema con i tefilin già addosso, vero? E approfondendo o allargando questo stesso tema, citiamo un maestro che parla dell'importanza di leggere lo Shema con i tefillin. Amar Ula disse, Kol HaKore, chiunque legge, Kriyat Shema, la lettura dello Shema, Bello tefillin, senza avere su di sé i tefillin, che ilu, è come se meid edut sheker be'atzmo, è come se testimoniasse una testimonianza falsa be'atzmo, letteralmente be'atzmo vuol dire di se stesso, ovvero, nel senso, un modo che si può tradurre questa cosa, che lui dice nello Shema che bisogna ukshartam leot al yadecha vehayul totafot beninecha, e ovvero, cioè che bisogna mettere i tefilin, e lui stesso non li mette. Allora è una testimonianza falsa. Però Rashi e altri maestri lo spiegano in maniera diversa. Beatzmo, testimonianza falsa riguardo se stesso, non è inteso riguardo se stesso, cioè riguardo la persona. È un modo di dire, non lo vogliamo dire in maniera espressa, chiara, ma Beatzmo stiamo parlando di Akadosh Baruch Hu. Ma sia, non vogliamo dire che lui dice una testimonianza falsa, ma è come la persona che non si mette i tefillin quando legge lo Shema, è come se facesse testimoniare ad Akadosh Baruch Hu una testimonianza falsa, per così dire. Per quale motivo? Perché lui ci dice Vayule Totafot Beninecha, e cioè che sarà messa in atto questa mitzvah, e se noi lo diciamo senza metterlo in atto è come se lui dice una cosa falsa. Questo è il modo in cui Rashi sembra spiegare questa cosa. Però la Gemara a volte vuole dire delle cose di questo genere, ma non vuole esprimere in maniera chiara. Allora dice Beatzmo, ma uno deve capire che Beatzmo di sé si intende non la persona, ma HaKadosh Baruch Hu. Oppure in un'altra maniera, simile sempre, si potrebbe spiegare che quando la persona dice ve'ahavta, eccetera, appunto, ve'ayu le totafot benenecha, ve'ayu adevarei ma'ele, allora vuol dire che la persona ha l'obbligo, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, la persona ha l'obbligo di rendere uno, le yached, di parlare dell'unicità di HaKadosh Baruch Hu, anche attraverso il legarsi addosso ai tefilin, sul braccio e sulla testa. Questo indica che lui è unico nel suo mondo, Kadosh Baruch Hu Yachid Beolamo, e quando non mette i tefilin è come se non riconoscesse questo suo essere unico, perché l'essere unico si esprime nel fatto che noi mettiamo i tefilin, e quindi è come se si dicesse una falsità di HaKadosh Baruch Hu. Ma vale solo per tefilin? Perché è scritto pure della mezuzà. No, ce la dimette però. La messa fissa. Tu dici se mai non c'è la mezuzà? Sì, però questo è una mitzvah della persona, e quella è una mitzvah della casa, è diverso. Okay. La mezuzà è una mitzvah della casa. E questo però ovviamente, i maestri fanno presente, i commentatori, che questo è uno che lo fa appositamente per non mettere i tefilin, perché ha qualcosa, diciamo così, tra virgolette, contro i tefilin, o è troppo pigro mettere i tefilin la mattina. Ma se non ha la possibilità di mettere tefilin, non ce li ha appresso, eccetera, o per qualsiasi motivo che non ha la possibilità di metterli, allora questo non è, deve comunque leggere lo Shema, non è considerato come se avesse detto una testimonianza falsa. La prova anche ce l'abbiamo, noi l'abbiamo letto nell'ultima lezione, la Gemara ha detto che Rav, qualcuno testimoniava che Rav metteva i tefilin dopo che ha detto lo Shema. Perché? Perché gli sono arrivati dopo, siamo arrivati alla conclusione, alla fine dell'ultima lezione, giusto? Molto bene. Ora, proseguendo su questo stesso tema, citiamo un altro Chacham, un'altra riga e poi arriviamo alla pagina 15a. Il maestro Amar Rabbi Chia Barabba, disse Rabbi Chia Barabba, Amar Rabbi Yohanan, a nome di Rabbi Yohanan. Chiunque legge lo Shema senza i tefilin, lui fa un altro paragone. Che ilu è come se avesse hikriv ola belo mincha. Zevach belo nesachim. Come se avesse portato un korban, un sacrificio di ola, senza la mincha. Il sacrificio andava accompagnato anche da una parte vegetale, che si chiama mincha, una parte farinacea. E che una cosa accompagna l'altra. Oppure Zevach belon Nesachim, oppure un altro tipo di sacrificio, Shelamim, senza i Nesachim. Nesachim sono le libagioni di vino che accompagnavano il Korban. È come praticamente che tu fai una cosa a metà. Come dire, non è una cosa intera. Nello stesso modo in cui chi ha portato il Korban senza portare la Mincha relativa al Korban, la parte farinacea relativa al sacrificio, e non ha fatto una cosa intera, nello stesso modo, chiunque legge lo Shema senza mettersi i tefilin non ha fatto una cosa intera. Qual è la differenza tra queste due affermazioni? Quella di Ula, che dice che è come se testimonianze in falso, e quella di Rabbi Chia, a nome di Rabbi Yohanan, che dice solo come se non ha ha portato la cosa ma non l'ha fatto in maniera intera, completa. Secondo la prima opinione, quella di Ula, chi ha detto lo Shema senza mettere i tefilin ha comunque fatto la mitzvah dello Shema. È uscito l'obbligo della mitzvah di leggere Kriyat Shema. Però ha un problema di questa testimonianza falsa. Secondo Rabbi Yohanan sembrerebbe peggio, perché nel caso del sacrificio della Olah, che non è fatta in maniera completa, vuol dire non c'è la parte della Mincha, la parte farinacea, anche il Korban stesso non è valido. La validità del Korban dipende dalla completezza, che ci sia tutto quello che è necessario che ci sia, quello che è richiesto che ci sia. Dal momento che non c'è, è tutto il Korban, non è valido nella sua maniera più completa. Allora è come se dicesse che manca qualcosa anche nello Shema stesso quando mancano i tefilin. Ula dice nello Shema non manca, però si aggiunge il fatto della testimonianza problematica falsa. La Biochanan dice è come se nello Shema stesso manca qualche cosa se non ci fossero i tefilin quando ci devono essere. È come se una macchina senza ruote non cammina. Oh, bravo. Ve'amar Rabbi Yohanan, riportiamo un altro detto di Rabbi Yohanan, sempre legato ai tefilin. Disse inoltre Rabbi Yohanan, Harotze sheyekabel alav ol malchut shamayim, colui che vuole accettare su di sé il giogo del regno celeste, shlema, in maniera completa, Toda. Ora inizia qui la pagina 15a. Come si deve comportare? La prima cosa, deve preparare il suo corpo. Yipane, vada ad occuparsi dei propri bisogni del corpo. Poi vi toglia dav, si pulisca, si lavi le mani, netilati adaim. Poi vi aniach tefilin, si metta i tefilin, poi vi kna kriyat shema vit palel, poi dica lo shema e la tefila. Vezuhi kabbalat ol, vezuhi malchut shamayim shlema. Questo è il modo di accettare il giogo del regno celeste in maniera completa, in maniera ideale. Cioè, uno si deve preparare, si deve predisporre e fare tutto il necessario. Deve mettere le tzitzit prima, è possibile? Sì. È obbligato mettere le tzitzit prima del... Madonna, bah, grazie, molto gentile. Allora, il motivo per cui qui non è menzionato tzitzit, il tallet, i tzitzit, è perché la modalità dell'obbligo del tallit e del tzitzit è diverso da quello dei tefilin e da quello dello shema, eccetera. Perché? Perché i tzitzit sono obbligatori dal momento che la persona ha un abito, indossa un abito sul quale ci sono quattro angoli, allora c'è l'obbligo di mettere i tzitzit sui quattro angoli dell'abito. Ma se tu non indossi un abito di quattro angoli, non sei obbligato a mettere i tzitzit. Come dire, se vuoi mangiare la carne, devi prima assicurare che sia sciachtata. Non c'è obbligo di andare a sciachtare una bestia? Se non vuoi mangiare la carne, non devi sciachtare nessuna bestia. Non è un obbligo assoluto, devi andare a sciachtare una bestia una volta al giorno, una volta a settimana. No, non c'è questo obbligo. Vuoi mangiare la carne? Allora questo è il modo che si mangia, prima si deve sciachtare. Vuoi mettere un abito che è fatto di quattro angoli? Ok, lo puoi mettere, ma prima devi mettere i tzitzit. Sei obbligato a mettere un abito di quattro angoli? No. Ovviamente oggi noi che non vestiamo abiti di quattro angoli, perché abbiamo abiti fatti in maniera diversa, quasi tutti, allora appositamente facciamo un abito per fare la mitzvah. Che sarebbe il tzitzit. Sarebbe il tzitzit, perché se non lo facessimo appositamente non avremmo. Adesso, okay. E vogliamo rientrare in questa mitzvah, un'altra volta spiegheremo tutto il motivo. C'è anche la puntata dei diamanti della Torah sul Talet, sì, che spiega, sì, che spiega la motivazione sul video del nostro canale. Però... l'occasione in Kazakh, perché sono bellissime. Todarabà. Quindi qui parliamo delle cose che sono obbligo assoluto. I commentatori, in particolare Rabbeinu Yonah di Girona, spiegano che quanto ha detto adesso Rabbi Chia Baraba, nome di Rabbi Yohanan, quando noi mettiamo, perché questa è considerata un'accettazione completa del giogo e del regno celeste, quando la persona mette sulla testa i tefilin della testa indicano che la persona sottomette la propria neshama, la propria anima, alla volontà di HaKadosh Baruch Hu. Perché proprio la testa? Perché c'è scritto che Mishkan HaNeshama BaMoach, il luogo del riposo dove viene a posarsi la neshama prevalentemente è nel Moach, nel cervello. Allora il tefilin della testa indica che vogliamo sottomettere la nostra parte spirituale, la nostra neshama, alla volontà di HaKadosh Baruch Hu, mentre invece il tefilin del braccio, questo indica che la persona vuole sottomettere non solo la sua parte spirituale, ma anche la sua parte fisica e materiale, indicato proprio dal braccio che è l'azione, ma soprattutto la posizione dei tefilin che è rivolta verso il cuore, e che indica i desideri della persona, le sue volontà, di sottomettere anche queste alla volontà di HaKadosh Baruch Hu. Quando la persona prega, legge lo Shema, in una maniera che sottomette alla volontà di HaKadosh Baruch Hu il suo aspetto spirituale, il suo aspetto materiale, i suoi desideri, le sue volontà, i suoi pensieri, allora questo vuol dire accettare completamente il regno di HaKadosh Baruch Hu. I tzitzit, tornando a quello che diceva William, i tzitzit sono non un'accettazione del gioco, hanno una funzione diversa, anche quando ci sono. I tzitzit sono un ricordo di tutte le mitzvot. Uzhartem et kol mitzvot Hashem. Quando vediamo i tzitzit ci ricordiamo di tutte le mitzvot. Ma l'accettazione delle mitzvot, questo si esprime nello Shema e nei Tefilin. Però tutto questo ha valore se uno lo sa, senso, grazie al Dio. Per questo studiamo, bisogna studiare. Come si fa a sapere qualcosa senza studiare? Quanti noi mettono i Tefilin così in testa, così, perché si deve mettere? Bravo, per questo bisogna studiare. Per fortuna. Sì? Tutto a posto, eh? Ok. Ma a mettere sì? Il film senza tzitzit è comunque possibile. Questo. Sì, certo. Ora. Allora, saluti. Che sia tutto... Ciao Leo. Ciao Lupo. Ciao. Ciao. Ancora su questo, su questa scia, citiamo di nuovo lo stesso Chacham. A fine della seconda riga c'è l'acronimo Amar Rabbi Chia Bar Abba. Amar Rabbi Yohanan. Disse sempre Rabbi Chia Bar Abba a nome di Rabbi Yohanan. Kol hanifne. Chiunque va, esce, si intende va a fare i propri bisogni la mattina. Venotel Yadav. Si lava le mani, umaniach tefilin, mette i tefilin, ve kore kriat shema e legge lo shema, umit palele, dice la tefila. Quindi fa tutto quello che abbiamo già descritto nell'ultimo paragrafo. Ma ale alav hakatuv, il versetto c'è la Torah, considera come se lui avesse fatto che cosa? Che ilu bana misbeach, come se avesse costruito un altare. Vehikriv alav korban, e avesse sacrificato, portato, offerto un korban, un sacrificio sull'altare. Dichtiv, e ci si appoggia a una fonte testuale, è scritto nel Teilim, Erchatz benikayon kapai, e cioè, lavo le mie mani, Erchatz, Lirchotz, lavare le mani, benikayon, pulizia, vasoveva et misbachacha Hashem, e circonderò, non circonderò, andrò intorno al tuo misbeach, al tuo altare Hashem. E il fatto di lavarsi le mani è una allusione alla tefilà, perché proprio alla tefilà. Perché è scritto riguardo la tefilah di Shlomo HaMelech, quando fu costruito il primo Bet HaMikdash, lui fece una preghiera particolare all'apertura e richiedendo che la presenza divina si posasse sul Bet HaMikdash. Lui c'è scritto Vaifros Kapav Hashamayim e alzò le mani verso il cielo e un tipo di preghiera. In realtà lo vediamo anche nella parasha che abbiamo appena letto. In cui si dice che Moshe Rabbeinu, mentre Yehoshua e l'esercito combatteva contro Amalek, Moshe teneva le mani innalzate in tefilà, in preghiera verso l'alto. Quindi è un'allusione alla tefilà. Ora aggiungiamo, visto che abbiamo menzionato la Netilat Yadayim, il lavare le mani prima della tefilà, un altro aspetto di questa cosa. Amar lei, ce l'avete? Amar lei Ravà. Disse a lui Ravà, Ravà disse a Rabbi Chia bar Abba che ha appena citato questa cosa, lo savar l'amar, non è lei forse dell'opinione che, o dell'idea che chi fa la Netilat Yadayim prima della tefilà è anche, che ilu è anche come se avesse tavval, come se avesse fatto proprio la tefilà, come se si fosse immerso nel mikveh, perché questo versetto ha una doppia allusione, in quanto c'è scritto, dichtiv è scritto, Erchatz benikayon, mi lavo in pulizia. Se mi lavo già capisco che c'è la pulizia. Perché questo raddoppiamento del termine? Non c'è scritto archiz, velo archiz kapai, erchatz benikayon, vuol dire io mi faccio lavare, erchatz, vengo lavato. Una persona che viene lavata è una cosa passiva. Se tu ti immergi nell'acqua, allora passivamente sei coperto dalle acque. Quando ti lavi le mani è una cosa attiva, archiz, io lavo le mie mani, non vengo lavato, diciamo così. Il essere lavato in certo senso è nella Torah la parola rechitza a volte vuol dire anche immersione, ma in questo termine, nel modo grammaticale in cui è usato, potrebbe voler dire una immersione totale. Quindi, secondo Ravah, ci vuole insegnare che non solo è come se avesse costruito un Mizbeach, eccetera, ma è anche come se avesse fatto proprio una immersione totale nelle acque purificatrici del mikve. Visto che abbiamo menzionato questo versetto e abbiamo esposto qualche derashah su questo versetto, la Gemara continua con un altro aspetto che è legato a questo versetto qui di Erchatz Benikayon Kapai. La Gemara dice così: Amar lei Ravina le Ravà. Disse uno dei maestri, Ravina, a un altro dei maestri, Ravà. Gli disse così: Chazemar, lei ha visto Hai Tzurba Merabanan, questo giovane allievo intelligente, Harif, come si dice Harif? Spiccato. Sveglio, spiccato. Secondo. De'ata mima'arava, che è venuto dall'ovest, cioè da. Già sappiamo che dall'ovest vuol dire da. Non vi ricordate? Che senso? La Babilonia. Da Eretz Da Israel in Babilonia. Ah, sì. Da questo Si dice, si sente, da Israele si dice che sì. da Da ovest Egitto e è venuto da ovest. No, noi siamo in Egitto. Babilonia. Ravina e Sì. Ravah stanno in Babilonia. All'epoca di Dice venuto da Babilonia. ovest, vuol dire venuto da Eretz Israel, Israele. Mima Arava. Ha visto questo giovane spiccato allievo che è venuto da Eretz Israel, Veamar, e lui disse, portò con sé un detto dei maestri di Eretz Israel. Mi she'en lo mayim lirchotz yadav, colui che non ha l'acqua per lavarsi le mani prima della tefilah, mekaneach yadav, strofina le mani, le pulisce facendo un movimento di strofinamento, be'afar con della terra, o bizror, sì, bravo, bizror con qualche sasso, ubekismit, o piccola, come si chiama quando si taglia della legna, rimane le Segatore. segature, qualcosa, o piccoli pezzetti di legno. Ovvero in qualche altra maniera, con qualcosa di duro, si strofina le mani per pulirle se non c'è la possibilità dell'acqua. E da questo riferimento, scusa, che viene quella che abbiamo studiato appunto, che Anche, quando non c'è acqua si fa così. anche. Sì. Sì, quello che viene. Sì, ma Allora Ravina era. dice a Ravà come se questa fosse una novità che in Babilonia non avevano sentito, e dice: Hai sentito questa cosa che dicono in Eretz Israel? E Ravà gli disse: Amar lei, Shapirka Amar, ha detto bene, ha ragione, in quanto miketiv erchatz b'mayim, c'è forse scritto in questo versetto che abbiamo citato dal Teilim, capitolo 26. Erchatz b'mayim, mi lavo con l'acqua? Non c'è scritto mi lavo con l'acqua, c'è scritto Erchatz b'nikayon, mi lavo con ciò che pulisce. Da questo possiamo anche trarre l'allusione, il riferimento allusivo al fatto che non è necessariamente solamente con l'acqua che ci si possono pulire le mani prima della tefilah, ma se nella mancanza dell'acqua è possibile anche in un'altra maniera. Kol mi de menakeh, ogni cosa che pulisce. E non solamente l'acqua, è un'altra prova per questa cosa. Ha Rav Chista, troviamo che uno dei grandi maestri, Rav Chista, l'ayet amandi mehader amaya beidan zelota. Lui malediva uno che stava cercando l'acqua prima di pregare, cioè che l'acqua non era prontamente disponibile, e uno andava a cercare di qua, di là. Se no, non va bene. Se non c'è, ti lavi con qualcos'altro e ti metti a fare tefillà, non perdere tempo ad andare a cercare l'acqua. Per il motivo che ora spiegheremo, perché in teoria, se vi ricordate, William diceva, abbiamo già studiato nello Shulchan Aruch, che bisogna pulirsi con l'acqua e c'è anche, si è definito fino a dove bisogna andare a cercarla l'acqua, quindi Sì, non la è che non bisogna distanza. proprio cercarla, abbiamo parlato delle distanze, la Gemara subito fa l'appunto e dice, Hanemile, questo quanto diceva Rav Chista, che malediva, diceva no, ma questo qui non fa bene ad andare a cercare l'acqua, si intende l'ikriat Shema. Solo per lavarsi le mani per poter leggere lo Shema. Lì non bisogna andare a cercare l'acqua secondo Rav Chista. Ma va lì tfilà. Perché lo Shema è più facile perdere il momento di leggere lo Shema. Allora se vai a cercare l'acqua forse passa il tempo e non rientri più nella mitzvah della lettura dello Shema. Ma la tefilà che abbiamo più tempo per rientrare nella mitzvah, allora mehadar, bisogna andare a cercare. Secondo i termini che abbiamo spiegato già quando abbiamo studiato questa halakha nello Shulchan Aruch. Questo è come lo spiega Rashi, il discorso della differenza tra Shema e Amidah e Tefilah riguarda i tempi, che per lo Shema i tempi sono più stretti rispetto a per la Tefilah che sono più larghi, ma non tutti sono d'accordo con questa spiegazione. Perché effettivamente anche la tefilà ha un tempo specifico. Allora, ok, è un po' dopo, però il problema è simile. Rabbeinu Yonah fa un'altra distinzione, dice qual è la differenza secondo Rav Chista che abbiamo letto qui tra l'orario, il lavarsi per lo Shema che non bisogna fare troppi problemi per andare a cercare l'acqua, mentre invece per la Tefilah sì. Dice siccome la lettura dello Shema 2 volte al giorno è una mitzvah mi deoraita, vi ricordate cosa vuol dire mi deoraita? Dalla Torah stessa, è una mitzvah biblica. E quindi siamo più attenti a non far passare il tempo. Allora cerchiamo di eliminare le cose che possono disturbare. Quindi, sì, devi lavarti le mani. Non c'è l'acqua, allora che vai, fai qualcos'altro per lavarle e di lo Shema. Non andare a cercare perché vogliamo essere più attenti. Mentre invece l'obbligo di pregare 3 volte al giorno è un obbligo midrabbanan, un obbligo rabbinico. Di conseguenza, anche se dovesse passare il tempo, non è un annullamento di una mitzvah deoraita e quindi siamo meno attenti, diciamo, e abbiamo detto no, invece devi cercare l'acqua. Qua io ho una Sì? domanda che non Qual è la domanda? riesco a capire una cosa. In che epoca questi di Babilonia dicevano, di quelli di Israele, che epoca già erano entrati in Israele i popoli? Sì, erano usciti. Qua nell'epoca, diciamo, sì, non L'epoca del Talmud della conosco Babilonia? Tu dici l'invocazione. che erano dalla Babilonia Sì, hanno nell'epoca. detto di Babilonese, dicevano che da Israele. Dunque, che epoca è questa qua? Questa epoca è l'epoca successiva alla Mishnah, successivo alle. Stiamo parlando di un'epoca dopo che è già stato distrutto il Beit HaMikdash. Dopo tempo. Ah, dunque Qualche secolo dopo già. c'erano già che sono tornati in Babilonia. Scusa, il popolo è Non sono mai arrivato andati via. dall'Egitto. No, no, no. Allora, Non riesco a. nella cronologia storica è successo così che dopo la distruzione del primo tempio, Sì. Ezra e Nehemia sono tornati dalla Babilonia e hanno costruito il secondo tempio. Vero? Erano già in Babilonia loro. La Tornati. distruzione del primo tempio era stata effettuata dall'impero babilonese e hanno esiliato Gli gli ebrei. ebrei in Babilonia. Sì. Ok? molti esili sono tornati dalla Babilonia 70 anni dopo con Ezra e Nehemia, e lì è stata la costruzione del secondo Beit HaMikdash, è stato un ritorno dalla Babilonia in Eretz Israele. Ma anche dopo che c'è stato questo ritorno, moltissimi sono rimasti in Babilonia. Non è che si sono svuotati, la comunità della Babilonia si è svuotata. Molti, molti sono rimasti in Babilonia. E hanno continuato. E le comunità babilonesi sono andate avanti. Poi, andando avanti nella storia, dopo la distruzione del Beit HaMikdash e tutti i vari problemi che ci sono stati con i romani, eccetera, le comunità babilonesi sono diventate molto forti, più forti di quelle di Eretz Israele, perché erano più tranquilli lì che in Eretz Israele. Allora abbiamo al tempo stesso due grandi poli, centri di studio, che sono Bavel da una parte e Eretz Israele dall'altra. Per questo abbiamo anche i due Talmud, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. Qui stiamo parlando di un'epoca abbastanza tarda nel discorso storico. La collocazione del tempo. Molto bene. Ora la Gemara dice, quanto abbiamo anche già studiato nel Shulchan Aruch, Ve'ad Kama, quanto bisogna, strada bisogna fare per cercare l'acqua, giusto? La Gemara dice, Ad Parsa, fino ad una Parsa. Cosa è una Parsa? Una Parsa è circa 4 chilometri, sono 4 miglia, le miglia talmudiche che sono circa, non si sa esattamente, varie opinioni, più o meno, diciamo, una media di un chilometro, questi mil. Quindi circa 4 chilometri. E la Gemara aggiunge e sottolinea, questo riguarda andare avanti ancora una parsa fino a trovare l'acqua. Cioè, se tu stai viaggiando e non hai l'acqua, devi fare tefilà, devi viaggiare ancora un'altra parsa per trovare. Se non trovi entro una parsa, allora strofini le mani su qualcosa e fai fino. Ma la Chore, ma per tornare indietro, se dovessi dire ok, però per trovare l'acqua devo tornare indietro, allora filu mil e no choser, non deve tornare indietro neanche un solo mil, che è circa quel chilometro che dicevamo. Cosa vuol dire non deve tornare neanche un mil? Allora me la spiega, un minà, da questo possiamo capire, mil hu dei no choser, se richiede un chilometro intero di tornare indietro, allora non deve tornare indietro. Ma di meno, se sono 500 metri o 700, di meno, ha pachot mi mil, se fosse di meno di un mil, allora sì, deve tornare anche indietro, o almeno un po'. È un po' lo schema che applicato quando c'era la distanza da percorrere, se uno sta viaggiando in prossimità della tefilà, del tempio. Quello che sta dicendo? Del tempio? Sì, che abbiamo detto che se deve andare, può andare avanti una certa distanza per arrivare dove c'è il tempio. È una logica, insomma, più o meno simile. Sì, avevamo studiato anche questo questa stessa lacca qui riguardo l'acqua. Io adesso me la ricordo per il tempo, comunque sì, okay. Certo. Molto bene. Chi sta a casa e non ha acqua? Qui stiamo parlando di chi sta viaggiando, no? Chi invece sta a casa e non ha acqua, magari la CEA ha chiuso l'acqua quel giorno, cosa succede? È considerato come se viaggiasse e deve tornare almeno un miglio dietro, vuol dire almeno entro un chilometro deve andare a cercare, sì. Al bar. Sì, però non è obbligato ad andare a cercare se non è sicuro che ci sia l'acqua. Vuol dire andare avanti 4 chilometri e dietro 1 chilometro, entro uno, è solo nel caso che lui sa che in queste distanze lo trova, se la possibilità, casa, trova l'acqua. Non c'è, non sì, ma se sa che anche davanti e dietro non c'è, allora non c'è l'obbligo di andare. Certo. Quindi si strofina subito le mani su qualcos'altro e fa la sua tefilà. Allora concludiamo qui e la prossima volta proseguiremo con la prossima Mishnah. Che abbiamo concluso tutta la Gemara che commenta la prima Mishnah di questo capitolo e la prossima fase sarà una citazione di una nuova Mishnah che a sua volta sarà analizzata dalla Gemara.